America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. The only thing we've endangered is the reputation of the people in power who are building this. Greenwald, il giornalista del Guardian, un giornalista americano, dice in un'intervista che ha fatto ieri mattina con Giorgio Stephanopoulos, l'unica cosa in pericolo qui è la reputazione delle persone coinvolte in questa massiccia raccolta di dati. Non c'è nessun pericolo per la sicurezza nazionale nel dire agli americani che il governo sta raccogliendo questi dati. Queste sono cose che gli americani hanno il diritto di sapere. La storia la conoscete. Verizon ha ricevuto un ordine in base a una direttiva segreta che l'ha costretta a rivelare il traffico di telefonate dentro gli Stati Uniti e dagli Stati Uniti all'estero e dall'estero agli Stati Uniti di milioni e milioni di cittadini americani. Unfortunately, since the government hides virtually everything that they do with the threat of criminal prosecution. Sempre Greenwald dice: purtroppo, visto che il governo ci tiene all'oscuro di operazioni come questa, l'unico modo che abbiamo per venirne a conoscenza è tramite queste persone coraggiose che dovremmo ringraziare e non perseguire o mettere in prigione. Chi sono le persone coraggiose? In questo caso ha ormai un nome e un cognome, e la talpa si chiama Edward Snowden. È stato lui che ha dato i documenti e che ha fornito a Glenn Greenwald tutti i dati segreti relative a queste operazioni della CIA, a queste operazioni della National Security Agency. Chi è Edward Snowden? È un ex agente della CIA, ha 29 anni e, pensate, viveva alle Hawaii, era sotto contratto della CIA e della National Security Agency, guadagnava la bellezza di $200,000 l'anno e se la godeva in qualche modo con la sua fidanzata, eppure ha deciso di tradire la sua missione. Gli agenti della CIA ovviamente per definizione sono degli 007, devono giurare fedeltà non soltanto al governo americano, non soltanto alla nazione, ma naturalmente all'agenzia che servono. Ecco, anche lui è rifugiato a Hong Kong, non potrà essere perseguito, a Hong Kong non c'è l'estradizione, ha concesso un'intervista proprio a The Guardian e quindi a Glenn Greenwald e ha detto: ho deciso di sacrificare tutto quello che era la mia vita alle Hawaii, questo stipendio, questo mestiere che doveva essere molto interessante, perché in buona fede non posso permettere al governo americano di distruggere la privacy, la libertà di internet e la libertà di base di persone in giro per il mondo con questa macchina di sorveglianza di massa che si sta costruendo. Big Brother is watching you. The caption beneath it ran. George Orwell, l'autore di 1984, un libro storico scritto nel 1949 che faceva un pronostico: 45 anni dopo ci sarebbe stato un grande fratello che sarebbe stato in grado di controllarti in qualunque momento. Ecco, in qualche modo sembra che ci troviamo nel mezzo di questo film, perché da una parte un agente della CIA che denuncia il suo governo per principi e per questioni morali, dall'altra un presidente americano che si trovava in un vertice proprio questo fine settimana con il presidente cinese Xi Jinping, e uno degli argomenti di discussione doveva essere proprio le attività di hacking, di penetrazione di computer americani da parte della Cina. Obama è arrivato con questo scandalo per le mani, si è trovato naturalmente imbarazzato, eppure ha difeso la linea del governo americano dicendo che vale la pena forse di rinunciare a un piccolo margine di autonomia, di indipendenza, di libertà per proteggerci dai terroristi. Giving law enforcement the tools they need to investigate suspicious activities is one thing. And it's the right thing. Ma sentiamo cosa aveva da dire Barack Obama quando era senatore nel 2005. Era sicuramente molto più allineato con Glenn Greenwald, con Snowden e anche coloro che attaccano e attaccavano allora l'amministrazione Bush. In questo caso, in questa dichiarazione, dice: una cosa è dare alla polizia i mezzi necessari per investigare su attività sospette, che è giusto, diceva il senatore Obama, ma farlo senza una vera supervisione mette seriamente in pericolo i diritti di tutti gli americani e gli ideali in cui credono. E di nuovo, poco più avanti, nel 2007, prima di scatenarsi in quella entusiasmante campagna elettorale che l'ha portato alla Casa Bianca, sentite cosa diceva. This administration also puts forward a false choice between the liberties we cherish and the security we provide. Obama dice: questa amministrazione, parliamo di nuovo del 2007, si riferiva a Bush, questa amministrazione ci presenta una falsa alternativa tra la nostra sicurezza e la nostra privacy. Io fornirò al nostro sistema di intelligence gli strumenti per combattere il terrorismo senza minare la Costituzione e la nostra libertà. Ecco, un Barack Obama molto diverso quello che abbiamo ascoltato negli ultimi giorni, giustifica le azioni delle sue agenzie di spionaggio che si muovono in modo non diverso da come si muoveva George W. Bush. Qual è la realtà delle cose? Beh, che quando si arriva al potere ci si rende conto che certe responsabilità inevitabilmente portano a decisioni difficili, decisioni che magari ti possono mettere contro l'opinione pubblica. Io non credo che Barack Obama abbia autorizzato queste attività di spionaggio per controllare i suoi cittadini. Eppure, proprio perché c'è comunque questo terrore di essere spiati, di non poter più avere la propria libertà, vita, libertà, perseguimento della felicità, sono i principi chiave raccolti nella Dichiarazione dell'Indipendenza americana. Ecco, per questo molti americani si sono e si stanno ribellando. Maureen Dowd, una delle più importanti columnist del New York Times, attacca Obama. Dowd è una democratica per formazione politica, dice nel 2007, proprio riferendosi alle voci che vi ho fatto sentire, Obama diceva che non voleva gestire un'amministrazione come Bush o Cheney. Beh, dice, non ha da preoccuparsi. Con i prigionieri che non hanno il diritto di avere dei processi a Gitmo, cioè a Guantanamo, e che stanno facendo uno sciopero della fame, con la CIA che non sa neanche veramente chi sta uccidendo coi droni e chi no, con un approccio che va ben oltre lo zelo contro chi ha fatto delle rivelazioni e con un programma di spionaggio domestico segreto del governo che sta crescendo. Beh, direi che non c'è molta differenza tra quel che succede adesso e quel che succedeva ai tempi di Bush e di Cheney. Bene, quali sono i dati che sono stati raccolti? 3 miliardi di dati da computer americani, 97 miliardi di dati da computer nel resto del mondo. Questo in un periodo di 30 giorni, in marzo del 2013. Si è saputo quali sono stati i paesi che sono stati oggetto di spionaggio. L'Iran, 14 miliardi di dati raccolti. Pakistan, 13,5. Giordania, 12,7. Egitto, 7,6. India, 6,3 miliardi. Poi ci sono anche Somalia, Arabia Saudita, Cina, Europa, Germania, eccetera. Beh, devo dire che una riflessione si impone. Ci troviamo tutti esposti non soltanto alle possibili attività di spionaggio del governo americano, ma a quelle che ogni giorno compie sul nostro traffico Facebook, Google. C'è una situazione caotica dal punto di vista della privacy. Il dibattito è importante e nei prossimi giorni continuerò ad affrontarlo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Sabato notte, New York, 16.000 persone al Barclays Center a Brooklyn per il concerto di Paul McCartney, l'ex Beatle. Ha fatto sognare tutti, ha cantato vecchi successi come Hey Jude, Let It Be e Helter Skelter di Paul McCartney. Hey Jude. Hey Jude. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.